Amen. Quanti sentono pace in questo luogo? Questo è un luogo di pace. In un mondo di guerra, il Signore è per noi un rifugio di pace. Amen. Alleluia. Voglio andare subito alla parola di Dio in un passo così comune, così conosciuto, che però sento che è da parte dello Spirito Santo per tutti noi questa mattina. Sei venuto qui. Hai scelto di venire in chiesa, ottima scelta, falla ogni domenica, è il posto giusto per ricevere. Se vuoi ricevere, se vuoi conforto, se vuoi sicurezza, se ti riconosci parte del gregge di Dio, vieni in chiesa e nell'essere qui il Signore vuole parlarti e vuole dirti qualcosa nello specifico. Quindi ottima scelta che sei qui, ora ascolta quello che Dio ha da dirti, perché Gesù in Giovanni 10 al versetto 11 e non solo al versetto 11 dice: Io sono il buon pastore. Io sono il buon pastore. Lo ripete più volte in questo capitolo. E Gesù è il buon pastore. Puoi ripetere dopo di me: Gesù è il buon pastore. Ancora una volta, però dillo convinto, cioè se ci credi, dillo convinto, dichiaralo. Gesù è il buon pastore. Ancora una volta, Gesù è il buon pastore. Ora ripeti, Gesù è il mio buon pastore. Ancora una volta, Gesù è il mio buon pastore. Ancora, Gesù è il mio buon pastore. Alleluia. Che potenza che c'è in questa affermazione di Cristo Gesù. Io sono il buon pastore. Non solo il pastore, ma sono il buon pastore. Dio è buono, Gesù è buono e Gesù è un buon pastore. Ci sono tre cose che il pastore fa. Il pastore cura. Il pastore protegge, il pastore guida. Ripetete dopo di me, cura, protegge e guida. Questo è quello che il pastore fa. Il pastore cura, pasce le pecore, nutre le pecore, ha cura delle pecore. Il pastore, un buon pastore, protegge le pecore. Ci tiene a precisarlo Gesù in questo paragrafo. Non sono mercenario. Quando viene la minaccia non vado via. Anzi, io do la mia vita per le pecore. Io non sono uno che fa questo per un tornaconto personale come fa il mercenario. Io lo faccio perché sono il buon pastore, ovvero a me le pecore appartengono, non mi sono state commissionate, non è un lavoro sul quale speculo, sono le mie pecore. Io sono il pastore del gregge e per il gregge io do la mia vita. Gesù è il buon pastore e cura, Gesù è il buon pastore e protegge, vero Mario? Gesù protegge, Mario è diventato famoso nella città di Mola in questi giorni perché è caduto un albero, lui era con il figlio e dove è finito? Sui notiziari, l'ha chiamato il sindaco, che cosa è successo? Addirittura il presidente Meloni ha chiamato Mario e ha detto: abbiamo saputo che hai scampato questa minaccia. Ma sapete una cosa, per quanto possiamo riderci e scherzarci su, Gesù ci protegge. Gesù ci protegge da minacce, Gesù ci protegge da pericoli e lo fa quando noi vediamo l'albero cadere e scansarci di qualche centimetro, ma lo fa anche quando noi non siamo neanche consapevoli che lui ci sta proteggendo da minacce di morte. Probabilmente tu saresti morto in questo momento se non fosse per la protezione di Gesù Cristo sulla tua vita. Io lo credo fermamente. Gesù ci protegge. E c'è Stefano che mi guarda e sorride, perché ne ha scampate più di una volta la morte. Gesù ci protegge, ma ciò che mi piace e vorrei dare almeno attenzione questa mattina, molto brevemente, è che lui ci guida. Lui guida le pecore ed è bellissimo quello che dice prima. C'è scritto: a lui apre il portinaio, cioè al pastore apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Ascoltate ora, quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono. Va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Gesù guida, Gesù è un buon pastore che guida e lui guida da una posizione avanzata. Per poter guidare lui è davanti e deve essere avanti. Posso ricordarti questa mattina che Gesù è davanti a te, vuole essere davanti a te. Non avrei tempo per considerare le tante storie della Bibbia che ci parlano della guida di Dio, ma Dio non è cambiato, Lui continua ad essere la colonna di nuvola che ci guida durante il giorno e la colonna di fuoco che ci guida durante la notte. Lui è la stessa guida, Lui è la stessa guida del popolo di Dio, Lui rimane la nostra guida, Lui è davanti a noi. E sapete cosa significa questo? Che c'è un percorso. E non avrei neanche tempo di parlare del fatto che il cammino con Dio è un percorso in progresso. Se questa mattina ti senti bloccato in una stessa condizione e in uno stesso luogo, spirituale, geografico, quel che sia, sappi che il Signore ti sta chiamando ad uscire, a progredire, a muoverti, perché il popolo di Dio è un gregge che si muove, che non rimane fermo. Amen. Noi siamo chiamati a progredire, a camminare. La Bibbia parla addirittura che siamo chiamati a correre. Se non è più chiaro di così, non si può. Avendo lo sguardo fisso su Gesù, noi siamo chiamati a correre, a progredire, ad avanzare, a conquistare, ad avere nuovi territori di gloria che afferriamo per la nostra vita. Quindi Gesù è il buon pastore che ci guida in nuovi territori. Come possiamo essere guidati da Lui? Riconoscere che Lui è avanti, riconoscere che Lui è alla guida e vuole guidarti, riconoscere che Lui ti chiama per nome, riconoscere che Lui è vivo e parla. E questa mattina Lui è vivo e parla. Lui ti ha portato qui perché ti vuole parlare. Lui sta parlando in questo momento attraverso la sua parola. Lui ti sta dicendo: io voglio guidarti, figlio mio. Io voglio guidarti, figlia mia. C'è una voce udibile che tu puoi ascoltare se sei incline a fermarti ad ascoltarla per nuovi territori che ho per te. È bello che Gesù è la guida e Lui ci insegna come essere guidati, perché Lui è stato guidato. Se vuoi il perfetto esempio di un uomo guidato da Dio, beh, lo puoi trovare in buona parte in Mosè, lo puoi trovare in tanti altri personaggi biblici, ma in Gesù certamente trovi l'esempio migliore. Voglio leggervi quello che c'è scritto in Marco, è molto interessante. Questa è una condivisione che ho sentito nel cuore di fare ai capigruppo della nostra chiesa giovedì, quando ci siamo incontrati, ed è per gruppi che avanzano, per gruppi che procedono. Quanti sono benedetti dal gruppo in casa che si riunisce? Chi è che fa parte di un gruppo in casa? Gli stessi che hanno alzato la mano, bene. Quindi sei contento di far parte del gruppo in casa. Ed è così importante che noi viviamo dei gruppi familiari che si incontrano e progrediscono, vanno avanti e conquistano. Ascoltate quello che c'è scritto in Marco, perché qui comprendiamo come Gesù si lasciava guidare. Versetto 32 dice: poi fattosi sera, quando il sole fu tramontato, gli condussero tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era radunata alla porta. Immedesimatevi nella storia, tutta la città radunata alla porta, tutti i malati, tutti gli indemoniati portati a lui. Versetto 34: e egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie, scacciò molti demoni e non permetteva loro di parlare perché lo conoscevano. Poi, ascoltate ora, la mattina, mentre era ancora notte, cioè era ancora buio, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e la pregava. Versetto 36, Simone e quelli che erano con lui si misero a cercarlo e trovatelo gli dissero, tutti ti cercano. Ed egli disse loro, andiamo altrove. Andiamo altrove. Vedete, la Bibbia va letta a volte proprio con quella giusta lentezza, immedesimandoci nelle storie, per comprendere fino in fondo la profondità di quanto abbiamo modo di leggere, è parola vivente. E qui noi abbiamo un'istruzione, anche se non è un manuale, scritto come un manuale per seguire la voce di Dio, per seguire la volontà di Dio, per avere la guida di Dio, devi fare così, così, così. Però nelle storie, in quello che Gesù vive e in racconti come questi, noi comprendiamo come Dio vuole guidare anche la nostra di vita. E quello che è affascinante di questa storia è che Gesù sta vivendo un successo. Gesù sta vivendo un grande successo. Guarisce la suocera di Pietro, non sappiamo come si sia sentito Pietro di questo atto miracoloso, però ha guarito la suocera di Pietro e poi dopo noi leggiamo che l'intera città viene a lui e miracoli accadono, persone inferme guariscono, indemoniati vengono liberati e il giorno dopo, di prima mattina, tutti lo cercano in quella città, tutti lo cercano in quel luogo di successo, quel luogo di fama, quel luogo di bellissime cose che stanno accadendo e Gesù logicamente avrebbe dovuto fare una cosa, se io fossi stato Gesù, rimanere in quel luogo. Rimanere in quel luogo. Che fai? Cambi il luogo quando tutto ti sta andando liscio? Quando tutto va bene, che fai? Cambi il luogo. Tutto fila liscio, hai fama, hai la sicurezza delle persone, torneranno, ieri è andata così bene, torneranno. E invece Gesù dice a Simone, andiamo altrove. E questo verso 38 è ovviamente strettamente legato al verso 35. Lo vedete la connessione? Non è scritto esplicitamente, non c'è scritto che Dio ha parlato, non c'è scritto che in quel tempo di preghiera il Signore ha detto, non c'è scritto che Dio gli ha ricordato, non c'è scritto quello che è la missione che Dio ha rinnovato nel cuore di Gesù, ma Gesù evidentemente alla luce del tempo in preghiera vissuto in disparte ha delle istruzioni molto chiare, è ben guidato e sa che non deve rimanere là, deve andare in un altro villaggio, che non saprà come sarà quell'altro villaggio e non saprà che risposta avrai nell'altro villaggio. Ci sono villaggi e villaggi, lo sappiamo che Gesù non sempre è stato ben accolto, Gesù stesso non è sempre stato ben accolto in tutti i villaggi. E sebbene fosse Dio al 100%, era anche uomo al 100%, nella sua umanità, io credo che aveva proprio bisogno di avere le conferme di Dio, perché lui si è reso conto, il posto migliore dove ritrovarmi è nel centro della volontà del Padre. Io faccio quello che il Padre mi dice, e io sono dove il Padre mi vuole, e io dico quello che il Padre mi dice di dire, e io faccio quello che lui mi ha detto di fare, quello che ho visto fare. E questa è la vita che Dio vuole per me e per te, ben guidata, ben orientata e non basata su quella che è l'emotività, su quello che è la comodità. La scorsa settimana abbiamo avuto questo bellissimo appuntamento con una sorella della Chiesa che ha detto io voglio servire, abbiamo fatto un appuntamento, era un tempo bello e in modo particolare nel parlare abbiamo chiesto ma cos'è che ti spinge ora al servizio? E mi è piaciuta la sua risposta. Lei ha detto io sto troppo comoda. Sto troppo comoda, io sto bene. Fratelli e sorelle, ascoltatemi, Dio non è che ci vuole sempre in una posizione di comodità, lui ci vuole scomodare, ci vuole portare in altri villaggi, ma sarà molto più comodo scomodarci che rimanere accomodati. Perché la comodità che Dio ci dà nello scomodarci è una comodità che ci fa vivere nuovi miracoli, nuove conquiste, nuove vittorie e l'adempimento della sua piena volontà. La piena volontà di Dio per Gesù non era raggiungere un villaggio. Per questo sono venuto, dice Gesù, per questo il Padre mi ha mandato, perché sia predicato l'Evangelo non solo in questo villaggio ma anche in altri. Che meraviglioso esempio noi abbiamo nella famiglia di Jason e Serena, che dicono non solo qui, e dove si trovano evangelizzano, e dove si trovano portano luce. E questi sono esempi che, è vero, è giusto che loro dicano non siamo speciali, non siamo degli eroi, però è importante che noi riconosciamo dei buoni esempi in mezzo a noi. E che leviamo i buoni esempi che abbiamo in mezzo a noi, non per distanziarli da noi, ma piuttosto per dire io voglio vivere questo tipo di vita. Nella paura non farmi bloccare dalla paura. Nel timore non farmi bloccare dal timore. Ascoltatemi bene, quello che Gesù fa in questi versi è qualcosa che tutti noi possiamo benissimo fare. Tutti noi possiamo ascoltare la voce di Dio, tutti, nessuno escluso, perché a volte sembra che sia così complicato ascoltare la voce di Dio. Sembra così difficile, sembra che solo alcuni la sentano e altri no, la maggior parte di noi non sente la voce di Dio. Quello che Dio ci chiede di fare è quello che semplicemente Gesù ha fatto: fermarsi, pregare e ascoltare. È incredibile quello che succede quando ti fermi in un luogo appartato, quando è buio, quando non c'è nessuno e sei nel deserto, quando non hai distrazioni e non hai altre cose che prendono la tua attenzione. È incredibile quello che accade quando ti apparti, quando preghi e quando ascolti. Evidentemente Gesù non ha pregato solamente, ha ascoltato. Fermati, prega, ascolta. Sapete cosa succede a me molto spesso quando mi fermo e prego? Che io ho così tante parole da parte del Signore, tante istruzioni, che tutto il tempo va a finire che prendo appunti e comincio a lavorare, mi metto di nuovo all'opera e poi dico no, ma io sono partito che mi dovevo fermare e ascoltare, devo fermarmi un attimo, perché Dio parla, Dio alimenta, Dio ti ricorda, Dio ti parla. Dal punto di progresso nel quale ti sta chiamando, venite dietro a me e io vi farò pescatori di uomini. Lui non ti vuole nella barca a rimanere, ad essere un pescatore di pesci, a fare qualcosa che è rutinario, qualcosa che è monotono, qualcosa che è umano, qualcosa che è terreno. Lui ti chiama a qualcosa che è miracoloso, qualcosa che è divino, qualcosa che è soprannaturale, qualcosa che è miracoloso, ma tu devi seguirlo e per seguirlo devi fermarti, pregare e ascoltare, ed è molto facile. Devi solo fermarti, devi solo pregare e devi solo ascoltare. E alcuni di voi mi stanno guardando, ma già fermarci. Però siamo qui, Chiesa, siamo qui. Fermati, fermati ora. Quanto spesso veniamo in Chiesa e anche nell'incontro e nel tempo, un'ora e mezza che abbiamo dedicato per stare alla presenza di Dio, non riusciamo a fermarci. Questo è un tempo prezioso, fratelli e sorelle. Eppure possiamo essere presi da così tante cose, così tante distrazioni, che addirittura quello che è un tempo già prestabilito e da calendario diventa un tempo nel quale non ci fermiamo, non preghiamo, non ascoltiamo. Gesù è qui perché vuole fermarti, vuole che tu preghi e vuole che tu ascolti. E lui vuole parlarti questa mattina. Quanti vogliono ascoltare la voce di Dio? Amen. Fermati, prega e ascolta. Vorrei invitare il gruppo Lode. Vogliamo vivere un tempo di preghiera. Fermati. Fermati. Fermati. Ci sono persone che stanno correndo. Dio non può guidare chi è in una continua corsa e non ricerca nuove istruzioni. E puoi essere illuso di essere pienamente in corsa in quella che è la volontà di Dio per la tua vita. Ma quando è stata l'ultima volta che sinceramente e profondamente ti sei fermato, non per ascoltare la tua voce, non per ascoltare la tua strategia, non per ascoltare quello che secondo te può funzionare e nella volontà di Dio, ma per ascoltare la sua voce che ti dice qualcosa di assurdo, cioè cambia villaggio. Tu sai che Dio ti ha parlato il più delle volte quando ti chiede di fare qualcosa che è illogico, qualcosa che può sembrare fare passi indietro, ripartire da zero. Gesù è qui in questo villaggio, dice: oh, qua sta succedendo un risveglio, qua sta succedendo qualcosa di incredibile, e ora tu mi chiedi di andare in un altro villaggio dove non mi conoscono, non so come mi tratteranno, ed è un ripartire tutto da zero, tutto da zero. Ma non è un ripartire da zero, è seguire una nuova istruzione per un nuovo territorio ad un nuovo livello. Ricordo questo predicatore che faceva questo esempio, diceva: mio figlio mi ha chiesto come contare fino a 10. E io gli ho detto: allora, figlio mio, è molto facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E il bambino ripeteva: 7, 8, 9, 10. E memorizzava, riesce a contare fino a 10, impara a contare fino a 10, ma poi da 10 a 20, un altro sforzo. E questo padre dice: no, puoi farcela, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, papà, non riuscirò mai a contare fino a 100. E il padre: no, puoi contare fino a 100, non è difficile, ora che sei arrivato a 19, ora che sei arrivato a 19, il 20 è solo un 10 a un nuovo livello. Quindi fai così: 20 e 1, 20 e 2, 20 e 3 e 4 e 5 e 6, e 7, e 8, vedi, è facile, sono gli stessi numeri, a un nuovo livello. Sei arrivato a 30, è facile, 30 è uno zero al terzo livello, 30 è 1, 30 è 2, 30 è 3, 30 è 4, alcuni di noi sono arrivati a 19, e dicono: 19 è comodo, è un alto livello. Non voglio lo zero di un nuovo livello. E il Signore ti dice invece: c'è uno zero a un nuovo livello. C'è un nuovo villaggio che sembra essere un ripartire da zero, ma è dove io ti sto chiamando. C'è un 30 che è un zero al terzo livello. C'è un 40 che è uno zero al quarto livello. E il Signore sta chiamando alcuni di noi a resettare tutto, a mettere un zero nella propria vita. A morire, a dire: non io, tu Signore. Tu non io, di nuovo tu non io. E per quanto questo possa sembrare un ripartire da zero, è un zero a un nuovo livello. E io voglio un zero a un nuovo livello. Quanti vogliono uno zero a un nuovo livello stamattina? Quanti vogliono dire: io voglio uno zero a un nuovo livello? Non fa niente che zero, non fa niente che un nuovo villaggio, ma è a un nuovo livello. È dove Dio mi vuole, Dio ti vuole a uno zero di un nuovo livello. E ti ha portato qui per dire: figlio mio, c'è un zero, ma è a un nuovo livello, c'è un nuovo villaggio, e io ti sto chiedendo di dire a te stesso e agli altri: dobbiamo andare altrove, c'è dell'altro da vivere, c'è dell'altro da conquistare, c'è quell'anima da conquistare, ma ho evangelizzato già così tante volte, ed è mio figlio ed è testa dura. No, c'è uno zero a un nuovo livello. Abbiamo pregato insieme con Giovanni prima, c'è uno zero a un nuovo livello, ritornare nelle proprie ginocchia come hai pregato la prima volta per tuo figlio affinché sia salvato, per tornare a pregare con la stessa intensità, con la stessa passione, senza farti rubare la fede dal dubbio che viene da parte del nemico. perché tu e io siamo chiamati a conquistare altre anime, a raggiungere altri paesi, ad avere altri territori che ci vengono affidati da Dio, ma dobbiamo essere disposti a fermarci ora, a pregare e ad ascoltare, e a vivere uno zero a un nuovo livello. Vogliamo alzarci, vogliamo pregare. Dobbiamo pregare ora. Alleluia. Spirito Santo è qui ora. Voglio dirti solo questo: ci sono degli ostacoli. Sì, ci sono degli ostacoli nel percorso che il Signore ci affida. Però ci sono solo due tipi di ostacoli. Ci sono ostacoli che vanno rimossi, vanno affrontati e vanno vinti. E poi ci sono ostacoli che vanno semplicemente ignorati. C'è il Mar Rosso, che è un ostacolo che deve essere affrontato. C'è il Mar Rosso che si deve aprire, miracolosamente Dio deve creare una strada dove non c'è. Tu questa mattina puoi credere in fede nel miracolo di Dio che rimuove ostacoli. C'è una montagna che va spostata. Ci sono ostacoli che vanno rimossi, che vanno affrontati. Il Signore ti sta chiedendo di avere la fede per credere nel miracolo, di cose che vanno superate e affrontate per fede. Ci sono altri ostacoli che vanno ignorati. Mosè che dice: ma non so parlare, ignora questo impedimento. Geremia che dice: sono solo un ragazzo, non posso fare questo. Ignora, dice il Signore, non dire sono solo un ragazzo. C'è Gedeone che dice: io sono l'ultimo della casa, l'ultimo degli ultimi, io sono senza influenza, senza forza, senza sicurezza, senza riconoscimento. E il Signore dice semplicemente: ignora. C'è la vedova che dice: ho solo una focaccia, ancora solo una focaccia e poi moriremo. Il Signore dice: ignora che è solo una focaccia, ignora che è solo una focaccia, tu donala a me. Mercoledì eravamo qui e nostro fratello Giacomo ha dato questa testimonianza meravigliosa sulle decime e le offerte. Il Signore che gli chiedeva di dare la decima in un tempo dove poi sono arrivate più spese che mai. Ma lui ha ubbidito. E nell'ubbidienza si è fidato. È la mia focaccia. E poi Dio, nella sua immensa bontà e misericordia, ha sovrabbondato, permettendo che quella decima si moltiplicasse, perché il guadagno, lo stipendio aumentava di mese in mese. Ci sono ostacoli che devi superare, ci sono ostacoli che devi ignorare. E lo Spirito Santo vuole rivelarti quali ostacoli questa mattina devi ignorare. Fratello mio, sorella mia, ignora quegli ostacoli che sembrano così ingombranti, che prendono tutta la tua attenzione, che sembrano insormontabili. Che il Signore dice: non prenderti cura di questo. Fai ciò che a me è gradito. Io me ne prendo cura. Vorrei che vivessimo un tempo di preghiera. Vorrei che tutti pregassimo gli uni per gli altri. Vorrei che tutti andassimo gli uni agli altri per pregare per gli ostacoli, affinché siano rimossi o siano ignorati, ma che in ogni modo la voce di Dio sia udibile, che noi possiamo seguire il nostro buon pastore che ci vuole guidare. Quindi, dopo che pregherò io, voglio invitare tutti noi a cercare qualcun altro col quale pregare. Voglio invitare avanti solo coloro che stanno credendo per un miracolo, che sanno che c'è un ostacolo che va rimosso. Forse è una malattia, forse è un impedimento in famiglia, forse è qualcosa di così grande, ingombrante, che però sai che va rimosso. Allora, per quelle persone che stanno credendo per un miracolo, questa mattina io voglio invitarti a venire qui avanti e voglio pregare per te individualmente. Tutti gli altri vogliamo cercare l'un l'altro in preghiera. Padre, grazie perché sei qui e grazie perché tu vuoi ministrare, perché rimani il buon pastore della tua chiesa e sei il buon pastore di ciascuno di noi, e noi ci riconosciamo come pecore insufficienti a noi stessi, incapaci a guidare noi stessi nei territori di conquista miracolosi che tu hai stabilito per noi. Per questo torna ad essere tu la guida, torna ad essere tu il sommo pastore, torna ad essere tu colui che guida i nostri percorsi, le nostre decisioni, le nostre scelte. Io prego in questo momento di preghiera che nuovi percorsi si possano sbloccare e che nel pregare gli uni per gli altri tu possa guarire, tu possa ristabilire, tu possa vincere e possa farci andare a calpestare i nuovi territori di conquista che hai stabilito per ciascuno di noi. Grazie Padre per la preghiera, grazie perché possiamo pregare gli uni per gli altri, grazie perché Gesù tu ci hai dato questo esempio e tu hai chiesto preghiera ai discepoli, e quindi anche noi abbiamo bisogno gli uni degli altri. E in questo tempo di preghiera ti chiedo di parlare profeticamente nel nostro mezzo. Spirito Santo, sii tu all'opera in questo tempo di preghiera nel nome di Gesù. Amen. Possiamo muoverci, andare gli uni agli altri o venire qui avanti se hai bisogno di preghiera per un miracolo. Alleluia.